qualcuno in ascolto. Tu dici, c'è qualcuno in ascolto. Delinquenti della vita altrui sono, perché non è possibile, ti rovinano l'esistenza, ti rovinano quando incontri persone del genere. Ma carità, vabbè, ma speriamo bene che non succeda più a nessuno. Speriamo di no. Mi avevo promesso mare e monti, poi ogni tanto me ne toglieva una cosa, capito? Ma guarda, c'è da prenderlo e ammazzarlo veramente una persona del genere. Tu ne sei qui, una doppietta di due qui. Sì, tanto è quello, figurati. Oppure così, oltre al fatto che ti ha bruciato i soldi, la moglie si sta avvicinando le mule, no? Si scherza naturalmente. Però ti ha trovato una persona, una doppietta all'ardo almeno, così. A fare lui deve stare un tutto quanto mai dubbiaito. Chiaro manca via gusto di pure un po', non credo. E infatti, ma ha fatto un gol mio un po' carino, allora. E questo è, ha fatto un gol mio un po' carino. Ma oggi sento delle scariche, ogni tanto c'è una scarica, tu la senti? Vuol dire che no, non la sento io, la voglio stare una cosa che è temporale. E infatti è una scarica come quando c'è un coso, c'è del, ci sono dei lampi lontani però, molto lontani, e si sente, ogni tanto una scarichetta. Questa, no, non la sento io, la pubblicità. Vabbè, mi stavo guardando poco fa la televisione, la corsa ciclistica, ho guardato, e poi stavo seguendo questa trasmissione di Murti che da TeleG, fa carità, mamma mia, grazie di terra di freuga. Lo stavo ascoltando perché stavo parlando della torre, ma non ne vale la pena comunque fermarsi su quel canale, proprio è proprio una porcheria nel vero senso della parola. Tu pensi al canale 12, quello lì, che è arrivato praticamente da poco, da qualche mese, cosa ci sta? Sarà 4 mesi, 5 mesi, è di gran lunga superiore a TeleG. TeleG non è mai riuscito a fare un passo avanti, anzi sempre indietro, a farvi schifo come programma televisivo. E magari hanno gente più brava, quindi di lui. Anche nel telegiornale, quando legge il telegiornale, vedi su una cantilena di gente, ma carità, che è lata di canale odioso, per carità, ma comunque, raramente lo guardo, anzi quasi mai. Adesso oggi, perché stavo girando i canali, e ho visto che stavano parlando della storia della Torres, e mi sono fermato un attimo, ma ha finito subito, non è che ne ho visto molto. Claudio non si è più inteso, vabbè, ci sono una giocata più antenne, magari tu ha lavorato alla casa nuova. Forse è impegnato, sarà per quello. Sì, è sicuramente così, è impegnato. E vabbè, lasciamo sistemare, una volta che si sistema definitivamente nella casa nuova si farà risentire senz'altro. Poi Marco lo stesso, la carriera, stavo entrando su questo canale, mi sembra che erano le 7 o qualcosa del genere, ha fatto accendendo e Marco che stava salutando che se ne stava andando a vedere cosa, come si chiama quel presentatore, Bonulis, che a me è un bel antipatico. E dunque, allora, non c'era più nessuno, sono passato sul 23 e ho incontrato Marchisio, Marino, qualche altro che c'era, tutto lì. Sì, ecco, non c'è nessuno, anche io faccio di là. Capito. Perché c'è De Maria, c'è Luca, e poi c'è anche Alessio. Sì, Gian Maria, Luca del Monte, non la frucano, quando la frucano penso di sicuro, per me chi c'è molto, per cui no. più niente a che fare io con lui. O meglio, lui non ha più niente a che fare, con me. Mi lascio dirgli una cosa, ma se sta lavorando non lo vuole telefonare, sai che lo Ehi, può darsi che di turno la sera adesso, perché in questi giorni non l'ho sentito agli anni, credo che sia di turno la sera, perché ogni tanto lo spostano un po', lavora la mattina sino a una certa ora, e poi la sera va nel libro e poi tra frequenza. Magari in altri momenti lo chiamano per la sera, cioè lo fanno lavorare la sera, e allora il discorso è diverso, non lo possiamo sentire. E lui, se ti stanno facendo fare il lavoro di un altro, capisci? E quindi lo guardi di lavagliare la gira, vedi? Lo so, purtroppo è così. Vabbè, lui con questo problema, tra l'altro, che ha del piede sempre, non so se è guarito adesso completamente o se ha ancora quel problema, avrebbe meritato sicuramente qualche mese di riposo assoluto proprio per guarire definitivamente questo piede, perché mi sa che è ancora così. Era in piedi ultimamente, era tornato, aspetta ma abbassa la ok, abbassa in piedi ultimamente, adesso non so se è rientrato. No, non lo so, perché io sono già da un po' di tempo senza sentirlo, per cui non ti so dire niente. Va bene, capita, ma la mia carica che arriva ogni tanto, si vede che è proprio in questa direzione, va bene che c'è temporale lì vicino nella zona della Corsica, eccetera, per cui si sente anche qua, quando mi sono le lampi, il lampo, ma la direzione sono delle scariche elettriche micidiali, e ogni tanto lo sento qua, cioè c'è un baracchino, non è che vedo il tempo, ma il baracchino si sente, perché si propaga nell'aria, no? Sì, infatti te l'ho detto, si starà girando qualche temporale qua. Intanto lo battono, che ha fatto sta male, gli altri lo sono male nel freddo, non l'hai sentito? Negativo, questa stamattina non l'ho sentito. Sono tutto tranquillo, volgare, però stamattina presto non lo sentite, la figlia di questo video. No, stamattina penso di sì, sto parlando, 5 metri sì, no, allora il cane, no. Allora il portare il cane, no, allora non ha fatto niente. Ma stamattina penso, perché mi sono svegliato, più o meno quell'ora mi sono svegliato, 5 metri sì. Mi ha detto non vedi, no, io che prende sopra la gabbettuglia, no, che bobo. Allora, vedi un minuto ieri, ero nelle braccia di Morfeo. Ah così è, capita, è sempre avuto su micioia, capita, non lo so qui. Ah ti senti anche io sono malgrado. No, io mi sveglio la mattina di solito intorno alle 5, 5 e mezza. Dopodiché, cioè mi alzo per andare in bagno, perché altro, però non dormo più, non riesco più a dormire. Allora cosa faccio? Mi preparo la notte, mi preparo la radio, mi preparo con le cuffie e tutto. Ma sento la radio, ma con tutti i giornali radio che arrivi più tardi all'8 e un quarto, quando, cioè alle 7 e un quarto, quando inizia il gazzettino sardo. Dopodiché il gazzettino sardo, allora a quell'ora mi accendo la televisione, sempre con le cuffie, e ascolto dalle 7 e mezza in poi, dalle 7 e mezza alle 8, ascolto Buongiorno Regione. Le notizie della Sardegna, insomma, ecco, compreso il meteo, eccetera, per cui... Cosa hai detto? Il centralino, pari, no? Come se ne hai un centralino? A chi? Cosa vai? Fil volanti hai? No, a chi telefoni mi spesso, a rompere le scatole, era anche mia moglie. Che è andata a portare il cane, mia moglie, no? c'ha il cellulare, però non lo sente evidentemente, sarà già preso una base buca. Ho capito, o perché sarà silenziato, mezzo al traffico non lo sente, o perlomeno c'è la spenta che lo sa. Poi quando sei in giro col cane, col traffico delle auto che passano, è chiaro che a un certo momento il telefono può anche non sentirsi. No, c'è di vaga la centralina, ma che io ho appena finito di piazzare la centralina un paio di giorni fa, il piazzamento che ho fatto in bottega, nell'ufficio per mia figlia, per cui ecco ma che mi ha agito la centralina. No, sto facendo il bagno adesso, sto preparando il bagno, perché ho fatto anche quello, è ovvio. E poi alla fine c'è da mettere il parchetto. E poi sarà finito. Eccola per me, ma un paio d'ore tutti i giorni, non mi prendo preoccupazioni più di tanto più. E chi me lo fa fare? Prestano per me. Due ore dalle 10 a mezzogiorno tutti i giorni così. Un pezzuglio, un pezzumani si fa lo stesso lavoro, dura molto tempo perché si sa, se fai poco tempo di lavoro è chiaro che dura molto, dura mesi, ma non me ne frega niente, va bene lo stesso. Sì, fino che fretta, piano piano, non sei da massaggio. No, assolutamente no. Stamattina ho fatto le tracce per l'impianto idraulico, per cui avanti domani un po' pure dubbi e fra bighemo. E così anche quello sarà pronto. Dopodiché si fa tutto il resto, intonaco, mattonelle, pavimento e via. E allora Brescia mi devo vegliare, poi ho preso che pensione su figurati che epita. E vabbè, comunque per me è anche uno svago mio, la verità, la mattina quando sono lì sto bene, mi faccio quelle due ore tranquillo e rientro a casa felice e contento. Infatti, se non fai nulla io lo vedo. Io tutti ero manco i brasilieri, i svaghi, e va bene così. Infatti, no, anche perché mi piace così fare queste cose, e non solo quelle cose, qualsiasi cosa, basta che mi venga impegnato dopo un contento. Che pascià, per cui va bene così per me. La mia aspirazione è quella, fare sempre qualcosina così la mattina, tanto per non annoiarmi più di tanto. Intanto andiamo in Sassari, non ci sono attrattive di nessun genere, non ti offre niente questa città di cacca che stiamo vivendo, per cui andare così. In macchina non aiuta di fare un giro su un buon va, ti fai 10 minuti e tagli la tutto Sassari. E poi mezzo al traffico cosa fai? Invece a preferenza mi passo un paio d'ore così e quando finisco lì mi inventerò qualche altra cosa. E io non vivo, a Maragana. Sì, infatti. Uno che è abituato a lavorare dopo a stare senza fare niente, è brutto. Io sono così. Avanti un rotto fischietto. Io ho i brusci, sì o no? E penetra nel coma di Bossamà. Certo, cosa è riuscito a fare non lo so più. Vabbè, dai. È così io, Natali. È un canarino che è entrato tra questi. Però sono dovuto, devo dire, ma chi non fa vita? Ma di tutti i sensi non fa vita. Quando non fa di te. Sarà saldo molto, è casa di sopra io. Figurati, fai tu puoi fuscia pure nelle balle del piatto. Sto preoccupato, sì. a lui, finché la facciamo un figlio. Capito? Sì, al Marco così gli ha dato, allora grande come se un tempo buono, magari un giretto fuori ce lo possiamo anche fare, la mattina, così, a vedere, a visitare di nuovo qualche paese vicino, e senza fare 300 km, non ce n'è bisogno, ma qui, tanto per consumare benzina, ho una tariffa. Ma va, un momento, no, ancora per freddo, un attimo di là. Sì, ma quando fa tempo buono, magari, cioè, buono. Quando comincia a fare tempo buono, sì, diciamo bene, già ne vale la pena, ma adesso no, al momento no, poi, e ora vai. Più in là, vedremo. Se Dio ci lascia, e se saremo sempre sani. Oh signore, Marco non è entrato ancora, sarà nel mondo di tu. Sarà attaccato alla televisione, aspettando che entri Bonulis. Mamma mia. Lui, chissà perché mi è così antipatico, che è un buon loco. Che è il presentatore antipatico per i miei gusti, capo? Sì, è prepotente, ma l'abitato, non lo puoi dire. Ma è un caso di prima categoria, buono. Per carità. Si approfitta delle persone mentalmente, leggermente meno malate per prenderli in giro. Mi dà un fastidio, lo sai. Infatti, quando io giro il canale qua, che lo vedo, cambio subito, non lo posso vedere. E lui è rimasto, non mi piace, è più simpatico su macchine di musica. Io guardo un bagliaccio, anche quello mi offende, so che lui, quello lì, come si chiama, non me la metto nel manco, è dipendente di Bonulis, quello lo fa Bonulis, lo fa quello lì, ma allora qui su sino altro. Se mi dica che buccia, però lo mortifica lui, lui Bonulis lo mortifica, sarà tutta scena, non lo so, pronto sta, io sinceramente non l'avrei accettato, io avrei questo pugno a faccia e te l'avrei buttato il capo, te l'avrei buttato il microfono in bocca, l'avrei affogato. Sì, il Luca Lauretti, quello che c'ha con la voce strana, è la bella solo quando sta. Luca Lauretti, sì. Sì, lui l'ha raccattato tantissimi anni fa, perché quello faceva piano bar, faceva, no? Perché in realtà cantava e canta, l'unica cosa che sa fare, se vogliamo, è quello. E lui l'ha raccattato e fa la spalla a Bonulis, però lo mortifica anche a lui. No, faceva tante scenette macchie, faceva, e poi lo prende in giro quando si mette a parlare, siccome che lui è balbuziente, e lui lo prende in giro, che poi anche Bonulis prima era balbuziente, tanti anni fa, poi è guarito, evidentemente ha fatto la cura, perché le balbuzie si possono guarire nel parlare, queste cose qua, me lo sai. Sì, lo so che c'è la cura, per queste cose qua. Ma è tutta scena, lo fa per fare scena, non è che va davvero a quelli, se lo lasciano fare perché è tutta scena. Lui ci sta perché sai, nel suo fare quotidiano è lavoro che gli permette di vivere anche a lui, perché ripeto, lui fa il programma, no? Prende l'ingaggio o lo prende il programma, se lo fa pagare, e poi Bonulis è praticamente un suo dipendente. Ecco per quale motivo io lavoro sempre in coppia con lui, perché gli fa la spalla, a meno che non siano amigati, cosa ne so io? Boh, tanto oggi verrà da pensare tutto qui. Natalia, non lo so, boh. No, già è sposato Bonulis, può darsi che sia anche agli ibridi, noi non lo sappiamo. che si è appena che è sposato. Può darsi, quindi è considerato che lo può vestire la donna, lo può vestire, lo fa fare, le fa fare la parte del ghi, praticamente, o meglio della donna, e lo danno il suo io. Dai, niente, tutta visiosa, amici, se vogliamo. Tutti questi della televisione, bene o male, sono tutti quanti figliati alla Recivi, quasi tutti. Sì, infatti, io non pensavo che ce ne erano così tanti. Quasi tutti sono figliati alla Recivi, oggi. Sì, ma vero, chissà questa che c'è anche in Italia, si sta manifestando una vergogna totale tra vegani e finocchi, o meglio perdonare, quello che vuoi chiamare. Guarda, si sta manifestando un popolo di schifosi, ma che tu attendi la televisione e bisogna, i vegani fanno le prepotenze, a chi dice che maltratta degli animali. Anche l'altro giorno c'era un dibattito su forum, quei processi della televisione, no? Che fanno quei dibattimenti. Questa donna, ragazzi, ce l'aveva contro questo perché aveva affittato il suo terreno ad un'azienda farmaceutica, e questa azienda farmaceutica dice che faceva gli esperimenti sugli animali. Lei, siccome abita vicino, che è confinante, non andava a vedere, e ha portato al bambino di casa, nel terreno, a dire di farle smettere di fare queste cose. Boh, non lo so io. Sì, perché usano le cappie, no? E aiutano ad andare. Sì, però se lei avesse bisogno di qualche medicinale, penso che non lo rifiuterebbe, perché anche quei medicinali che servirebbero lì sono state prima sacrificate delle cappie, è logico, è normale, no? Meglio le capi animali, tipo topi, queste cose così, che persone, no? Non ti bali. E allora, c'era un amico mio, il fratello di un amico mio che era civico, e quello è diventato medico, era ricercatore, no? Una volta, siccome era piedi, mi ha detto: Natalia, mi accompagna all'università che devo fare un lavoretto a un topino. E ci ha accompagnati, qui sei in America, va. Io conoscevo un amico, ma praticamente era un cognato di mia cognata, era là, e anche lui faceva il ricercatore, un certo, aspetta, come si chiamava, ma come l'ha detto, perché è morto già 5-6 anni fa, giovane veramente. Ah, di cognome si chiamava Marone, di cognome, di conto, di origine siciliana, cioè no, lui sassarese, il padre era nato, in realtà il padre era nato a Tunisi, il padre, il nonno era della Sicilia. Ed è morto, non mi ricordo come si chiama di nome, 5-6 anni fa è morto, una bravissima persona, poveraccio, era giovane, cosa avrà avuto? Avrà avuto se non 40 anni, 42 anni. Questo qui lo stesso è giovane, è in America, questo grande stesso, si pensa che aveva fatto un affare per il cervello, aveva fatto. Si pubblicava prima di essere medico ancora, si piaceva la ricerca di questo ragazzo, prendeva anche di elettronica, capito? Quando succede così, veramente, guarda, è un peccato che una persona giovane così si ammala così improvvisamente e muore. E pensare, rispetto, che lui era quindi che era dedito alla ricerca, appunto, delle malattie, eccetera. Purtroppo è andata così, pazienza. La vita alle volte è veramente crudele, ma crudele a vivo, però dopo volendo. C'è gente, ragazzi, che ha 120 anni e ancora qualcuno che ha quell'età nel mondo, e c'è gente invece che è appena nata, oppure muore in giovane età, no, comunque, purtroppo la vita è crudele. Sì, esatto. Insomma, queste menti così dovrebbero durare un bel tempo, perché sono menti proprio... Poi se ne scappano dall'Italia, perché non possono vivere, in Italia non li fanno lavorare, non si qua, ma c'è. Sì, perché in Italia non li finanziano, capito? E dunque non li aiutano queste persone. Tu basta pensare a tutti quelli, i cervelloni dell'Italia, quanti ce ne sono pure all'estero, soprattutto in America. Ce ne sono migliaia e migliaia, ce ne sono, ce ne sono italiani tutti fuori, quando avrebbero potuto arricchire dalla scienza la nostra nazione, e invece hanno studiato qua, hanno studiato e vanno ad arricchire gli americani. Purtroppo non ci sono alternative, e giustamente si capita, io voglio una laurea in un determinato settore, è chiaro che lo devo far rendere questa laurea, per quale motivo non lo devo sfruttare? Ah, ma menando, va bene, certo che va bene, cosa deve fare? E sai che muri di fame, ha chiamato il bamboccione, come hanno definito i giovani italiani, che li chiamano bamboccioni. E sono le migliori menti, un poco di cosa, e le cose che stanno soffrendo sono tutti italiani, molte volte sono insieme a questi dell'estero, pure si mettono e soffrono molte cose. Lo credo, caspita, io lo credo. Beh certo, perché? Non c'è l'albero dell'italiano, non è che rivedono di quelli degli stranieri, no? È l'Ubria. Se gli dai la possibilità di studiare, di sperimentare, solo che ci vogliono un sacco di miliardi, non di milioni, o di miliardi addirittura, perché gli studi non è che finiscono mai, ed è giusto che sia così, perché bisogna sempre progredire, andare avanti, soprattutto in fatto di medicina, perché non a caso la vita dell'uomo è aumentata di tantissimi anni, da una cinquantina d'anni a questa parte, prima si moriva a 40 anni, si moriva o l'altra lì. Oggi, come vedi, tanta gente che supera i 100 anni, e tutto questo è merito della scienza medica, della farmaceutica, eccetera, eccetera. E lì dopo può fare gli esperimenti sulle cavie, con i sopravvissuti, eccetera. Ma te ne mangi, ma te ne rendi conto che la sua mentalità ancora di gente che esiste? E lo so. Lo so. C'è gente così che contesta quello, contesta quell'altro. E non sanno manco dove stanno in casa, questa gente. Vabbè, c'è gente, tantissime persone che contestano il padre e la madre, figurati un po' cosa lo contestano gli altri, le persone che non conoscono, o per gelosia, o per ignoranza, io dico soprattutto ignoranza, perché la gelosia è un conto, ma l'ignoranza è molto, ma molto più grave, o per malvagità, perché nascono con una mente ribelle, e che lo sa, comunque. Oi, vabbè, dai, anche i camorristi ci vogliono. Sai che apro mia moglie. Prego. Avanti. Ciao, buonasera Giulio. Mi dice come sto uscendo, per favore, che sto facendo due tratture a un 140. Più o meno la modulazione va bene, come sempre, no? Sempre uguale, sempre bellissima, fortissima soprattutto. Alla grande, Cla, ciao Cla, sono con con Natalino che è andato a aprire la porta e ha suonato la moglie. Io mi stavo facendo, visto ce l'avevo smontata a Ferrario, c'era un ritocchino da fare sul microfono, ma lo sono fatto così, lo rimetto, sto pulendo, sto rimettendo dentro la scatola, va bene, va bene. Ok, dammi il tempo di mettere a posto, allora la lascio stare così, quindi non c'è a toccare niente. No, va benissimo, è fortissima, ma chiarissima, tutto bella, bella, bella, bella, bella, molto bene, per me non c'è niente a toccare niente, anche troppo forte, però è una potenza apprezzabilissima, figurati. Baracchini a sintonia continua, lì. 340, cioè, baracchino a sintonia continua sono. Però mi ascoltavo in cuffia e mi sentivo gracchiante, l'ho dato appena appena proprio, ma con le cuffie orecchio leggermente sul bias, evidentemente chi ce l'aveva toccato. Adesso mi sembra che sia abbastanza chiara. Va bene, dai, aspetta che abbasso gli altri radio. Continua con Natalino, dai, se rimanete qua al limite entro a farmi due chiacchiere che metto a posto, che sono tutto incasinato in occhi. Ok, qua, sì, va benissimo, a voglia. La sensibilità del microfono è ottima, perché si sente addirittura il sottofondo della televisione di casa tua, ma non dà il minimo fastidio, perché va benissimo, ripeto, appunto quello che stavo dicendo. Volendo, se tu volessi, potresti anche abbassare, ma a me andava pure così come c'è, non, nessun problema, perché ripeto, è alta, è forte, ma è chiarissima, è perfetta, non c'è niente, ecco sotto, non ci sono rumori, non c'è niente, al fuori del rumore di fondo dell'ambiente, però non rumore di fondo di interferenza, no, dell'ambiente, e cioè la televisione che la sento in lontananza, in poche parole, in casa tua, capito qua? Sì, ho capito perfettamente. Vabbè, al limite la abbassiamo leggermente, adesso fammi, c'è il Mickey Gaine, lo mettiamo al limite sotto la C, per questo già lo sai, è a slider, infatti ne ho approfittato, tutto lubrificato con gli slider, non si sa mai che mi lascino a piedi, visto ce l'avevo aperta, giusto per ammazzare un tempo, vabbè. K, dai, riprendi con Natalino, arrivo subito io, poi ci metto a posto qua, ne tolgo tutta la roba a mezzo ai piedi, ok? Già sono qua. Ok, va. Comunque auguri per il mercoledì prossimo, mamma mia, che speriamo bene, quanto sei felice se vincesse con l'Atalanta mercoledì prossimo, così ce ne andiamo a 4 punti, e cominciamo a mettere il turbo, se Dio vuole, ma speriamo bene. Comunque non voglio pronunciarmi più di tanto, ci vado piano, piano, piano. Guarda che è entrato, sì. Io che sono andato a aprire a mia moglie, qui non ho pigliato le chiavi, nulla, tutta i dipinti. E da sono la campanetta io la apro e gli attendo le chiavi. Ok, Natalia, un campanello si vede in una casa, serve un burro a trattarlo. va bene, Natalia, che problema, infatti non se ne prende chiave perché sapeva che c'eri tu, se no se l'avrebbe presa la chiave, no, per aprire, se la vuol gente, la rubriscio della Iana, lo ribassa la rubriscio. Non ho perso brutto, e tu diventi un po' più inazzata, entrate, sai già. E già lo credo, cos'è la serratura di sicurezza? No, quale hai? Quella quale aste? Quella blindata, cioè, la porta blindata, gli altri conosci. Ah, la porta blindata, e dunque la serratura con le aste, sì. E come ti fa aprirla? Ohia! Se volevo un battone, che avevo fa aprirla. Grazie. E pericolosa, e gli ho messo anche, siccome mi avevano dato il pomello che potevi aprire da fuori, no? Gli ho messo quell'attrecolo che gira a vuoto, proprio per non poterla aprire da fuori, ma era già, niente. E beh certo, basta tagliare il quadretto, c'è la serratura, lo gira. Chiaro grido, che gira sempre, e canta la, e fa giro giro tondo, come il bello al mondo, la maniglia però. E ho grido, non è che può aprire la fuga, cioè cos'è? Caspita, no, non va bene così. La porta si deve aprire e si deve comandare solo esclusivamente dall'interno con la maniglia, dall'esterno anche con la chiave, ovvio, se no da dentro, e se no c'è per il buon piede dentro dal vacone. No, a me me l'avevano data in dotazione quella che potevi aprire, il pomello che potevi aprire, no? Però a me non mi considerava, e allora gli ho comprato 11 euro l'attreccolo che fa girare il pomello in vuoto. Beh certo, invece che c'è un ferro passante in parte, bastava accorciarlo e dentro la maniglia non entra più, dentro il quadro, diciamo, dentro il buco quadro, e gira sempre a vuoto, e ti fa solo la maniglia per tirare e basta, niente, per chiudere la porta senza operare sulla serratura. E all'unico, che cosa vuoi fare? Caspita, così la gente arrivi, si apre la chiave e se ne entra dentro, devi invitare a pranzo, devi invitare. Allora, facciamo mangiare un brodino di mammo. E allora, un brodino di mammo. Vabbè, dai. Vediamo qua, Sampdoria 1, Parma 0. Sampdoria 1, Parma 0. Dai, sto guardando la partita dei ragazzi, però, però dovrebbe essere campionato in primavera, non lo so, perché ho tolto la voce, dunque, se no non sento a te. Qua deve essere così, deve essere una partita dei giovani, cioè, dai, campionato giovanile della, sempre della Serie A, però di squadre, cioè di squadre della Serie A, ma quale giovani? Ah ecco, no, Sampdoria 1 parte il San Belgrado 0, avanti c'è di fitto, pensavo che la Parma, perché se l'ha abbreviato, no, ce la parlo e basta, invece parte il San. Quel crumido di Marco mia, mai non è entrato, no? È un disgraziato, delinquente e assassino. Pure, ci hanno dato dei titoli. Cuglia, però a me mi fa venire il mio video. Ogni volta che accende la televisione, quando ci sono io davanti, dice, questa televisione è sempre sul canale sportivo. E io gli ho detto, invece quando ci sei tu davanti alla televisione, è sempre Bagliari Filippi. Io le telenovela guardano Maria De Filippi, queste donne, dopo e le vedi burrigianamente Zabaita di cose, quarto grado, Zabaita, chi l'ha visto? Non è possibile. Ah, aspetta, gli stessi programmi che guarda mia moglie, quarto grado, chi l'ha visto? Poi quello del sabato notte, di Maria De Filippi, come si chiama, non me la metto nel marco, che cerca di riconciliare i rapporti fra parenti, lontani o fidanzati di 50 anni prima, eccetera, eccetera. Com'è quel programma di Maria De Filippi, il sabato notte, o la domenica notte, non me la metto più marco. Se posta per te. Sono tutti i programmi che guarda mia moglie, precisa identica a tuo moglie. Dimmi tu. Ma la maggior parte delle donne guardano questi programmi così, allora non è possibile, buono, cosa vuoi dire? Ui. Ossia, quando devo guardare un telegiornale, io, ad esempio, se sono in una tavernetta, no? Non posso guardare un telegiornale, perché magari c'è mia moglie che sta guardando un programma di vita niente, di questi programmi che stiamo dicendo, no? Allora me salgo su dalla sala e facendo l'altra televisione per guardare magari il telegiornale, e non la mai da mai, ui. caspita, non è possibile, caspita. Ma lo sa sempre, se guarda il video cosa, come si chiama? Il caspita, gli ho guardato bene la faccia, ha bucato lì giù. E vabbè, da, è il suo mestiere. No, sto parlando della partita, adesso uno ha sollevato la gamba e l'ha preso proprio sullo zigomo, l'ha preso. Una buntata la cuccio a faccia. E stavo dicendo, io lo guardo il telegiornale, sempre, allora si guarda televideo, ogni tanto se la vedo e si mette televideo, quando già lo segue. Mi danno a chi non è buono, spero di avvisare i programmi da Paidalti di sfiducia. Certo, se per sapere cosa ma da sera tutti. Quarto grado, da lui, chi l'ha visto? Si chiudono amici, da lui va sempre la giornata, te l'avevo detto che era stato il marito che l'aveva ammazzata a quella che ma chi non andava a far caso in polizia a giudizio, si fai prima. Coccomane! Momento guarda! Qualche volta anche mia moglie già vi accenna qualcosa di quello che sta seguendo. Non è possibile. Vabbè. No, ma io penso che la maggior parte delle donne segua questo tipo di programmi, proprio perché. Oppure l'isola dei famosi, io dico l'isola dei falliti, io dico, ma che tutti i gatti che si chiamano anch'io, tutta gente fallita, artisti per modo da dire, ma me non sono per niente artisti, ma artisti che delle cose, tutti falliti, e allora vanno a fare quel programma lì, a pulirsi, a diventare nudo, soprattutto le donne, non lo so, più, fare di mezzo schifo. Con questa bretellina che entra tra le ciappe, ma poi un pantaloncino corto che fa più bella figura, in questa maniera mi fai capire che sei una farfallona del puntanismo. Mica è entrato il delinquente assassino, ragazzi. Oh, pruri titolato così, avanti, pruri titolato. E ha tenerato poco titoli poco fa, Natalino, ti capita, sei proprio rotto, sì, Buonasera, no, ho fatto una battuta veloce, non fate in tempo a riprendere che avevi già ripreso Giulio. Poi che freddo e ciò, ero fermo a navigare su internet con le coperte, adesso mi sono mosso per fare una cosa qui, però siccome ero molto fermo c'è un freddo, dovrei sgranchirmi un po', scaldare i muscoli, dai. Buonasera a tutti, tutto bene? Il vento non ne ha buttato antenne, no? No, no, la via è sempre bella, bella ritta, piantata, per cui... Sì, oscilla molto perché è una canna da pesca, però tutto a posto. Stavo dicendo, oh Marco, perché non devi comprare una stufa a pelle, te cazzo, perché è economica e la puoi piazzare in qualsiasi stanza. Non hai, tu mi sa che hai tu, una stanza che dà in facciata o da una parte o dall'altra, con un impianto semplicissimo, una canna fumaria che ci vuole. E ti posso garantire che è molto meglio ad esempio della bombola oppure della super elettrica eccetera eccetera, risparmio molto, con 400-500 euro una stufa, almeno in una stanza te la prendi e stai lì. Eia. Allora noi abbiamo sia la facciata, cioè il nostro appartamento si affaccia sia sulla facciata, cioè in strada, sia di lato dove c'è un vecchio foro di una canna fumaria, c'è già un foro che va fuori di canna fumaria che era di un, non lo so, di qualche caminetto, e poi la parte dietro. Sì, ma ci avevo pensato, ma poi... giomai non ci arrivo a fine mese, figurati, se possiamo spendere 500 euro tutte di un botto. Sarebbe stato bello, è la verità, perché la canna, la sua pelle dà molti kilowatt di funzionamento, scalderebbe ben bene, caspita, gran parte, almeno la parte abitata dove siamo noi, capito? Però non non è per adesso, dai. E poi ci sono anche diverse versioni, ci sono quelli normalissime, ci sono quelli che mandano anche aria calda, ci sono quelli a idro, ma te la danno anche a rate, a 30 euro al mese te la danno tranquillamente, o Marco, no, non ce ne sono problemi. Vai lì, mi viaggio da clima, vende questo tipo di stufe, ed è uno che si mette anche d'accordo per il pagamento, problemi non ce ne sono. E oggi addirittura anche il Brico me le dà così, figurati, ma tutti i negozi, tutti. E caspita, se uno non ha economicamente tutto il gusto che ci vuole, lo può pagare anche a rate, con un piccolissimo anticipo, ti dai 100 euro e ti porti a casa la stufa, e il resto te la paghi a 25-30 euro al mese, che problemi ci sono? E chiunque ci arriva, dai, è perché non l'hai mai voluto fare, se no non è come sei pensato tu, io la penso così. Non devi andare, mica entra Claudio anche dopo, che stava chiudendo una radio, stava chiudendo, non devi andare, non spegne nel baracchino, lascialo perdere per oggi a cosa, come si chiama, a quell'animaletto di Bolonis, e rimani qua. Oh, io stavo aspettando che iniziasse, fra poco inizia. Purtroppo, me lo guarderò anche oggi, dai. Sì, diciamo siamo un po' indebitati già da adesso, quindi è meglio non esagerare, ma appena si può, se si può piazzare lì, in quel punto dove dico io, c'è già il foro per far fuoriuscire quello scarico che ha la stufa a pelle. Oh, un CB mi ha detto una cosa, mi ha detto, se devi comprare stufa a pelle te prendi termorossi che sono fatte bene, il resto sono fatte di si rovina in pochi anni, termorossi sono acciaio vero e proprio, le altre sono fatte di lamierino. Ma io ce l'ho già 10 anni, 12 anni, voi preciso, comunque diciamo non meno di 10 anni. E io la Palazzetti mi sembra che la marca. E ti posso garantire che è una gran bella stufa. Vabbè, la mia è anche idro, la mia scalda anche i radiatori, eccetera. Che io avevo fatto la modifica, perché prima era gasolio, l'impianto, e ho usufruito dell'impianto eliminando il gasolio e appunto piazzando quella a pellet idro. Ripeto, la stufa a pellet è adatta per qualunque tasca, anche delle persone più bisognose, più abiette della vita. Perché? Perché anche il pellet, vai a fare la spesa la mattina, ti compri un sacchetto, 5 euro per dire, e ti scaldi tutto il giorno, se no ti fa anche 2 giorni, te l'accendi solo la sera, ti fa anche 2 giorni, per dire no. Poi naturalmente io non è che voglio fare i conti in tasca a te, ci mancherebbe altro, stiamo solo parlando, ma è solo un consiglio, se mi consente di dartelo, che ti sto dando, niente di più. Visto e considerato che io ormai ce l'ho tanti anni e devo dire che è una cosa straordinaria. Per quanto riguarda la canna fumaria, va ultimamente bene quella. Anche mio fratello adesso che sta sistemando la casa nuova e ha la canna fumaria pronta e utilizza proprio quello scarico lì. Perciò anche lui farà quel lavoro, capito? Ehi, adesso rilancio Natalino. Sì, tanto guarda, da quel lato lì dove c'è il foro, e il lato, la parte laterale del palazzo, finestra non ce n'è, quindi anche se esce un po' di monossido di carbonio, no? Dalla combustione non succede niente. È che bisogna accarrarsi questi sacchi uno dietro l'altro, quanto ne consumano al giorno, bisogna stare a carrarsi questi sacchi, questa gente, mamma mia, bancali pieni, vabbè. Però è una bella, è una bella bestiolina per l'inverno, anche semplice, senza che scaldi il radiatore né niente, una stufa pellet e boom, né idropellet né niente, sarebbe già una bella cosa, va? Natalino, come stai? Male, male. Perché? Ma hai fatto visite, hai? No, allora devo fare giovedì, così no vorrei la patente. E come mai male? Cosa c'hai? Male da qualche parte? No, è che sono annoiato. E sapessi io che sto sempre a casa. Anzi, oggi, vabbè, non vale come uscita. Siamo andati a Doshan e ci siamo mangiati una pizzetta. Allora, siamo andati a pigliare il kebab e il kebab non c'era, l'avevano finito, proprio non c'era il rotolo di kebab, arrosto. Siamo andati a McDonald's ed era chiuso per ristrutturazione e allora abbiamo ripiegato su una pizzetta che le vendono a Etti, no? L'abbiamo mangiata calda sul momento, una pizzetta alle melanzane, buona devo dire, niente da dire, buonissima. Però sai, uscire sempre con mamma, come uscita lo sciamo non vale, siamo andati a mangiare più che altro. E cosa devo dire io che devo... Adesso vediamo quest'occhio cosa c'ha, anzi questi due occhi. Poi così, se è curabile, tocchiamo ferro. Se è curabile si cura o con laser o con qualche medicina. Vediamo se è il nervo ottico, se è la retina, se sono i capillari dell'occhio. Capito? Che palle. Andavi al Taipei, a Monserrato e te lo mangiavi il kebab, altro che quello del McDonald's. Ehi, ciao Claudio, no, già è buono quello che fa il bar. Peraltro oggi sono rimasto molto male. Mi è scappata anche qualche lacrima. Tornando a casa ho letto sul giornale che è morto Mario, uno dei baristi di quel bar a destra, entrando da Shana a destra, del parcheggio di sotto. Mario Russo, c'era il barista lì, c'avevo confidenza, era... si lamentava che era stanco di stare al bar, che si sentiva stanco, così. Gli avevano trovato la SLA, quel brutto coso, dopo pochi anni ho letto che è morto, c'era l'annuncio, sono rimasto abbastanza male, dai poveretto. E così era morto un altro che conoscevo io, un ragazzo per tutta la vita ha cercato lavoro, quando ha trovato lavoro di guardia giurata, gli è voluta la SLA, non te l'immagini, anche lui in pochi anni se n'è andato. Questo ragazzo invece era di Nulvi, questo del bar, c'erano 23 partecipazioni, insomma, sai, abbastanza conosciuto, eccetera, poveretto. E quello è un male che non perdona, quello è veramente brutto. Non è come la sclerosi che magari campi anche 20 anni, se non di più, con le medicine. Quello tempo pochi anni ti porta via. E vabbè, così è la vita. Vai Natalì. E anche Cesare, ha detto l'amico mio, che veniva a sparare con noi. È morto di là. Era il negozio di Ustica, lì mi si è parato. Correta. Era anche da diamatore quello. Come si chiamava? Cesare. All'ottico te c'era Cesare Desò. Cesare era anni così purtroppo. Vabbè, comunque buonasera a tutti, chiuso tutto qua. Spero che stia andando bene. Così anche questo è a posto. Ho fatto una pulitina, visionata, insomma. Quel poco che c'era da fare. E l'abbiamo messo un po' accesa, le altre sono tutte già nella scatta. Ma Giulio, mandategliai a Graziano quella foto che ti ho mandato. No, non gliel'ho mandato qua. Tanto non dico più niente. No, ma non quelle della casa, quelle della casa ho sbagliato, mandate a te per vedere, per farti vedere a che punto sono. Ho fatto la foto di un gufo. e te l'ho mandata, mi pare di avertela mandata, poi manda via. Ah, quella del gufo, sì, quella ce l'ho ancora, sì, quella ce l'ho, sì, me la mando comunque, e riscrivo Bulu, questo sei tu, gufo. Ma qual è quella foto che hai messo nell'account WhatsApp? E allora, avevo messo la foto a casa, la moglie non voleva, ne l'ho tolta, gli ho agitato, con lo gufo, così non mi gufa nessuno. Allora ho mandato anche a Giulia a mandarla a Graziano, capito? Sì, perché lui si chiama gufo, sì. Oh, io cosa ci metto? La foto di un buffo invece, buffo, capito? Claudio, una, te ne racconto una. Nada, nada. Quello tuo 1009 Jesu, no? Perfetto, cioè, se no non l'avrei mandata, no? Perfetto, in tutto lo spedisco. Insomma, questo ragazzo prima, il primo giorno è tutto bene, poi mi ha mandato un messaggio il giorno dopo, dice che no, non gli funziona il volume della banda sinistra. Non lo so, o l'hanno sbattacchiato nel trasporto, sai come lanciano i pacchi, no? E ci sono rimasto male, perché io gli ho spiegato che era perfetto, adesso non ci crede che questo ragazzo era perfetto. Vabbè, non mi ha più contattato, però i soldi me li sospesi, non posso nemmeno accettarlo, fare la restituzione. Ma te le immagini, ecco perché lo volevo vendere a Sassari, almeno uno lo vede, lo prova sul momento, sa che non lo distruggono i corrieri, perché i corrieri ne fanno porcherie, si lanciano i pacchi, li buttano dal camion a terra, e probabilmente qualcosa è successo durante il trasporto. Può darsi pure, è successo anche a me l'anno scorso, ho scritto una radio. Fortunatamente ho fatto le foto prima di metterla dentro l'imballo e gli è arrivata col case schiacciato. Mi ha telefonato subito, immediatamente, appena è arrivato al pacco, ho detto chiamami appena, tra l'altro uno che conosco in radio, non lo conosco di persona, ma abbiamo avuto modo di sentirci in radio, Radio Mattor. E gli ho mandato le foto e ha denunciato il corriere, capito, per farsi risarcire i danni. Fortunatamente gli ho mandato le foto, su WhatsApp e tutto, prima di imballarla avevo fatto le foto, non avevo un graffio, proprio ho schiacciato, si vede che ci hanno messo il piede sopra, capito, il cartone che c'era, con l'imballo che c'era, ha ceduto, oppure gli hanno messo un altro peso sopra, e quindi è così. Può succedere, Marco, non è quello il problema. Perciò sono una persona che capisce, purtroppo i trasporti lavorano così, è una cosa allucinante. Io ci ho lavorato e dico che stavo molto attento, perché non sai mai cosa c'è dentro il pacco, e quindi bisogna stare attenti e lavorare con la testa, non con i piedi. Ma ci sono alcuni corrieri che lavorano con i piedi, prendono a calci i pacchi, sembra che stiano scaricando ghiaia, non che stanno scaricando pacchi. Buttano tutto a terra, ci passano sopra, capito, un casino. Quindi poi se è successo quello, vabbè. Va bene, va bene. Sì, Giulio, così è. E così è così. Speriamo adesso che mercoledì dia un'altra battosta anche l'Atalanta, è così. Ci andiamo a 4 punti e il Napoli se la può pigliare in gomma devo samare. Ok, qua, speriamo bene, ragazzi, mamma mia. L'Atalanta io la temo, è forte, però dovrebbe prevalere la Juve, adesso vediamo, speriamo bene. Mi ero mandata comunque al gufo, ma gli ho scritto a vedere se è lui quello. Quel gufo. Sì, qua, speriamo bene, guarda, io cosa vuoi che ti dica? A questo punto incomincio a credere quello che aveva detto Allegri, dice la vera Juve si vedrà in marzo. Siamo già a metà, però ancora la vera Juve sinceramente, a parte i risultati che sono ultimi, sta andando benissimo, però non sono ancora contento. Devo vedere un po' più di gioco qua. Un po' più di gioco, il gioco già c'è purtroppo. Già lo sai, con tutte le infortuni che abbiamo, hai visto Higuain che sabato non è che era in forma, ce ne mancano. Ho provato a fare un turnover, ma poi alla fine è dovuto entrare Mazzucchi perché chi lo sostituisce è Higuain. Però una bella partita, dai. Vedo che anche gli altri stanno rispondendo, tranne il Napoli, è stato bloccato dall'Inter, ma questo sapeva. Va bene, avanti Natali, comunque, siete stati bene, sì, io un po' assente, un po' di cose da fare, un po' di lavoro, a destra, a sinistra, e mi sono un po' assentato, ma comunque, in linea di massima vi ascoltavo un po', con qualche radio che avevo lasciato, ma diciamo che adesso mi sono un po' liberato. Sarò un po' più presente. Avanti, Natali. Figa. Gianfranco chiedeva a me, cazzo, ma qua, boh, non ho visto né sentito. Fino a tardi non dice niente. Ma io l'ho telefonato a Gianfranco, appunto. Perché so che mi ha cercato, però l'ho assicurato, niente di sé. Quando uno è abituato a sentirti tutti i giorni in radio, la sera, a quest'ora, è già un mesetto che non mi faccio sentire, è chiaro che poi cosa è successo, cosa è successo. Niente di che, un po' di impegni, se no non le vogliamo bene, no? E quindi la sera, arrivando stanco a casa, sì, accendevo un po', vi ascoltavo, a volte la verità non c'era nessuno, quindi mi spostavo sul 23 ad ascoltare. Sono anche entrato la sera che c'era Marco, mi pare, forse tu non c'eri, voglio salutare 10 minuti e sono andato via, perché non aggiungava, proprio stanco. E vabbè, sì Marco, se questa è una persona seria già capisce come purtroppo sono i trasporti, capito? Raga Adriano che aiuta. Ora è andato a vedere Bonuris, perché lui è una apertatissima Bonuris, e dunque ce lo guarda tutte le sere. Sono qua. Magari fa la scuola, un po' al baracchino, un po' da Bonuris. È qua, è che ne era caduto dalla sedia. O dal divano. No, scusate, stavo facendo una cosa in cucina, e intanto adesso vado alla TV a vedermelo, dai. Vabbè, e quindi Claudio, quello magari storia non ha fatto, però magari pensa che gli ho tirato la sola. Invece io perciò volevo vendere a Sassari, ecco perché io sono contrario a spedire le radio, perché te le distruggono. Capito, non sai mai come tornano. Poi quello era un difetto occulto, cioè non era schiacciata, ma non funziona il volume sinistro. Date le immagini. Io ho detto, male che vada cambierà il potenziometro, però vedi. E vabbè, ormai purtroppo i soldi un po' li ho spesi, un po' li ho prestati a mamma per arrivare a fine mese. E quindi i soldi non ce n'è più. Oh, poi cosa ne so se gli è strampato a terra, lui magari tenta di farcelo a rimborsare, anche quello succedemi. E vabbè, dai signori vi saluto, che devo preparare anche tutta la pasta, la roba per dopo, dai, ciao a tutti, ciao, buon proseguimento di serata. Ciao Marco, buon proseguo serata anche a te, dai. Un consiglio che ti do, quando spedisci qualcosa con le tecnologie che abbiamo, fai un video, ok, un video, la foto, tutto del funzionamento, del volume, della frequenza sub, eccetera, quando si mandano queste cose così abbastanza professionali, e naturalmente glielo mandi. Guarda, la radio era così prima di mandartela, quindi io colpa non ne ho, perché è l'unica cosa per poterci salvare dal trasporto, dai corrieri, che ripeto, sembra che prendano per gioco questa cosa dei pacchi, ma gioco non è, perché all'interno di un pacco ci può essere anche una cosa che si può rompere, tutto qua. Va bene, dai, ti saluto, allora, buon Bonuris, quindi a dire in Aragantonata, due vedo, non è una persona che seguo io, mi piace più Gerry Scotti a me che Bonuris. Bonuris è un personaggio fatto da gatto. Vai Giulio. Ok, va bene, buona visione allora Marco. Ma tu dovresti fare come sto facendo io, anche in questo momento. Io ad esempio sto guardando una partita di calcio in questo momento. Sampdoria a parte San di Belgrado 1-1 intanto per la cronaca, 78esimo minuto dal tempo. Dovresti guardare la televisione e parlare anche a Baracchino, Marco, se no siamo già quattro gatti e comincia ad allontanarsi anche tu, allora voi e diventiamo tre gatti. Ecco qual è il discorso, Marco. Riprendi, dopo vai da Bonulis, dai, sacrificati. Sei entrato a Paolo di Valoraccia, sei entrato in Valoraccia, ha visto Chito Bonulis, che persona guasta, tra lui e quell'altro aiutante, vuole tutti e due gatti e gatti, e prendi Natali. Aiutante secondo me è meglio. Per carità, no, non è una cosa che mi piace. Mi piace molto il programma di Jerry Scotti quando c'è, ma lui è proprio, no, non mi attizza per niente. Infatti anch'io apprezzo così Jerry Scotti, è un signore, è uno che sta a presentare veramente. Lui maleducato non sarebbe ignorante, già è uno preparato, però è maleducato, io non lo sopporto per quel motivo, perché fa intanto sempre a voci, Bari un mancante, Bari, uno di quelli del mercato, sempre a bolli. E poi anche maleducato perché prende in giro le persone leggermente meno matte, quelle che lui si invita a fargli la spalla, capito? Vive sulla pelle degli altri, vive il tuo disgraziato, ma comunque ognuno ha le sue idee e guarda quello che vuole. Avanti qua. Sì, ma infatti non è una persona che a me mi attizza forte, no. Assolutamente negativo, assolutamente. Vabbè, ha detto De Biasi, allora lasciamogliela guardare, dove ti dica. Vai Natali, riprendi. E va, sì, sta venendo gente, all'inizio è tardi, che sta venendo gente che non è telefonato, tu lì sei un po' messo male, quando c'è gente purtroppo devi scappare, così è. Vabbè dai, sarà per la prossima. Avanti, Giulio, riprendi. Ok, ciao Natali, attendi pure se arriva gente, dai, accidenti, 2-1 per il Partizan, adesso ha segnato. Vabbè, ti stavo dicendo qua, sono contentissimo perché la Juve ha messo la freccia e ha fatto un sorpasso, però mi auguro che riesca a mantenerlo questo sorpasso, anzi che lo incrementi anche, l'allungo, e ha la possibilità di poterlo fare mercoledì prossimo, speriamo che sia in vena, chi se no voi, perché non c'è da fidarsi, con Napoli ha giocato con bene, anche ieri con l'Inter ha giocato, l'ha massacrata all'Inter, però non è riuscita a segnare, se no sul piano del gioco l'ha massacrata, come massacra tutte le squadre, massacra sul piano del gioco, però l'Inter è riuscita a reggere molto, io ieri l'ho vista, Brozovic mi è piaciuto anche molto, era fenomenale ieri, a centrocampo Brozovic è stato, guarda, il migliore in campo, parlo dell'Inter, per conto mio. Poi anche Candreva, devo essere sincero, ha fatto una bellissima partita, comunque è andata bene, dai. Lo sappiamo che il Napoli è così veloce e gioca alla grande a tutto campo, però ci ha fatto, diciamo, in un certo senso una bella cortesia, un piccolo aiuto per la Juve, l'Inter ci ha dato ieri. Vai qua. Infatti, un piccolo aiuto sì, però adesso gli scontri diretti e bisogna stare attenti, perché con gli scontri diretti è già come ti funziona, no? Beh certo, quello è appunto, perché ce ne sono, però per fortuna intanto lo scontro diretto con Napoli ce l'ha in casa la Juve, ma questo non significa più tanto, non è che abbia un grosso significato, sì è importante, però non è che ha questo grande significato. Però ci sono anche altre squadre, lo stesso la prossima partita dopo la sosta c'è la Spada, anche quella, anche c'è una squadra lì di bassa classifica, io ho più paura di quelle squadre lì che delle squadre di media classifica, penso un po', perché quelli sono agguerriti, quelli giocano un po' alla garibaldina se vogliamo e non ti permettono di esprimere, poi giocano sul duomo molto e sono squadre e poi so che la Sparta giocano molto bene, ha un bel calcio, vediamo bene cosa vuoi dire. Dovrebbe rientrare anche il coso di Sciglio, che aveva preso una forma straordinaria e poi invece si era infortunato, però se riprende, solo che sto aspettando con ansia Quadrado, io lo sto aspettando con ansia Quadrado, era quello che spaccava le partite, purtroppo è ancora infortunato. Ma la squadra qual è? Quella la praticamente come si dice, non è l'ultima è il Benevento, così è. Sì, vabbè, sempre a parte quello, ma anche la spada è lì in zona retrocessione. Dunque, siamo lì, ma sono tutte squadre che giocano a due vite e poi so che gioca anche bene. Ha un bel calcio, dai. Adesso vediamo. Speriamo che non giochino sul duomo, perché il discorso di giocare sul duomo, ragazzi, talmente è un fattore tremendo, perché hai visto quanti infortuni ha la Juve, e mi ha dato un uomo chiave, perché sono tutti uomini importanti quelli della Juve, anche quelli che riposano. E Tornove ieri ad esempio ha fatto 6 cambi, ha fatto, e ci è andata bene, abbiamo vinto, anche se poteva essere il terzo gol con il rigore sbagliato, pazienza, caspita, ma l'avremmo a sangue, non riusciamo a segnare il suo calcio del rigore. Tu pensa che, Higuaín già ha tirato 5 rigori e ne ha sbagliati, tutti e 5 ne ha sbagliati, non solamente col coso, con la Juve, con Napoli anche, eccetera, ma i 5 rigori che ha tirato, tutti ne ha sbagliati. Sì, ma io non capisco, però se Allegri ha detto che doveva tirare Dybala, perché ha tirato lui? Cioè queste cose bisogna stare attenti. So che di Tomasi sbaglia, infatti mi sono guidato e sbagliato. Ed è andata bene che abbiamo vinto lo stesso, però quando capita così, che è l'opportunità di passare il vantaggio subito, capito? Vabbè. Però Higuaín, i bari che calcio la fermano, non le masticano. No, in effetti non so per quale motivo. Che poi io dico sempre, che io mi ricordo quando io giocavo al calcio, la prima cosa che mi insegnavano, dice, quando devi calciare nel rigore, calcia un centrale, perché tanto il portiere si butta o da un lato o dall'altro, tu aspetti un mezzo secondo, quando vedi che il portiere si sta buttando, tu lo tiri centrale e non lo puoi sbagliare, non lo puoi buttare fuori. A me mi insegnavano così qua, guarda me li tiri via, poi se in realtà è così, io sono convinto comunque che è così. Deve avere occhio, vedere un po' quando si sta muovendo il portiere. Se il portiere si sta muovendo non fa più il tempo a rimettersi in senso, perché e poi calciare centrale e il pallone entra, non ce ne sta a fare. Sì, ma lui non l'ha guardata la porta, non ha guardato né portiere né porta, lui ha guardato la palla, stava guardando sempre la palla. E non va bene tirare rigori così, scusa. Non va bene, no, deve guardare il movimento del portiere sino all'ultimo momento, anzi tu ci devi arrivare. E deve avere un attimino, ma un decimo di secondo di esitazione. Quando vedi che il portiere si sta muovendo, devi calciare. Ma evidentemente ho la bravosia di segnare o il pensare, ho già sbagliato prima, non voglio sbagliare di nuovo e poi invece sbaglia veramente. Non so che cosa gli succede, certi campioni poi tra l'altro, non so la verità, cosa gli prende a questi, vabbè, comunque, poi deve andare deciso di andare, devi andare col corpo non troppo indietro, perché se vai troppo indietro lo butti in alto, invece il corpo deve essere in linea retta col pallone, il piede affiancato con la punta del piede davanti al pallone, tieni centrale, segni, perché il portiere, però ripeto, deve lasciare muovere il portiere, se lo sei, sotto la bocca. Certo che sì, infatti chi se se di barra la punizione l'ha bloccata, ma qui sta, dice molto bravo, se tiro da fermo. Tra lui e Pjanic sono micidiali nelle punizioni. Infatti ha detto, ma perché non lo tira di barra? E invece lui ce la tira a due e è sbagliato. E vabbè. E comunque è così, l'importante è che abbiamo vinto, poi si vedrà. E anche il Milan sta giocando bene, caspita, hai visto, Gattuso ha fatto ricredere la squadra, è cresciuta tantissimo. La Lazio, non ti dico il culo che ha avuto col Cagliari, perché hanno criticato a Dybala che ha fatto un gol da terra, e chi sono Immobile cosa era? Infatti, ma perché, perché non se ne erano accorto che fare un gol così, in quella posizione, in quella situazione, è solo un grande campione che lo sa fare, che lo può fare, non lo può fare un picco pallino qualsiasi. Il gol che ha fatto Dybala contro la Lazio, in barriera, sì, con la Lazio, che città, è da terra, è questo qua è bello, sa per calciare la terra, è in maniera precisa, è quello, non si riesce a capire come vede il calcio la gente, vabbè, con la gente lo guarda il calcio, la maggior parte, guarda, io sono più che convinto, almeno il 70% delle persone guarda il calcio, però non è mai ficcato, io sono sempre dell'idea che uno il calcio lo deve seguire con passione, dato per capirlo, diversamente no, io la penso così, non posso pensare diversamente, forse perché l'ho giocato, cosa ne so con club, so solo che la penso così. Anche se uno non ha giocato, che lo segue, il calcio deve capire quello che sta guardando. Infatti la Lazio si è rifatta col Cagliari, con quasi lo stesso gol che ha fatto Dybala da terra, e Immobile ha fatto di tacco, proprio al 94esimo, quindi, perché stava vincendo il Cagliari 2-1 e è finita 2-2. Il Cagliari, pazienza, servivano i tre punti per allontanarsi ancora di più, invece è stata bloccata anche lì, nonostante aveva già vinto, aveva la vittoria in mano, però io dico sempre che fino a quando l'arbitro non fischia bisogna giocare a pallone, anche disperati come hanno fatto sia Dybala che Immobile, perché il vero attaccante si vede lì, tu devi giocare fino alla fine e soprattutto con disperazione, credendoci, ma sempre con disperazione, perché sono quei pochi minuti che puoi cambiare la partita, infatti i risultati si sono visti. E vabbè, speriamo bene, anch'io la temo l'Atalanta, e Giulio, non pensare che sia una squadretta niente, però faccio 1+1, ho detto, ha buscato in casa, ha perso anche in Coppa Italia, quindi penso che non c'è due senza il tre, mi? Appunto, io la temo, non è che, cioè, la temo, la rispetto, come la rispetta la Juve, tu credi che la Juve sia tanto tranquilla, sicuramente rispetta l'Atalanta, perché lo sa che è un'ottima squadra, anche se l'Atalanta è il serbatoio della Juve, tutto sommato, se vogliamo, ma anche la Juve è il serbatoio dell'Atalanta, perché gli ha dato tanti giocatori, gli ha dato, ne ha preso la Juve dall'Atalanta, ma ne ha anche dato tanti, non a caso in questo momento ne ha due, che sono proprio di proprietà della Juve, Spinazzola e Caldara, per cui quelli, e poi l'altro che gli aveva dato quest'anno, nel senso, non mi ricordo come si chiama, anche quello, anche se non lo sta facendo giocare, peccato perché non lo sta facendo giocare, però al prossimo anno, a quanto sembra, quello la Juve lo prende e lo dà a un'altra squadra, forse al Bologna, non mi ricordo come si chiama, forse Orsolini, se ricordo bene, qualcosa del genere, adesso non me lo ricordo, comunque dovrebbe essere quello. E sono tutti ottimi elementi, adesso Caldara non dovrebbe nemmeno esserci per lunedì, penso che sia ancora infortunato, staremo a vedere. Caldara e Spinazzola il prossimo campionato lo fanno con la Juve, mi pare, no? Finiscono quest'anno. Sì, quest'anno, l'anno prossimo rientrano di prepotenza la Juve, e già lo credo. E sono passati 2 anni, ce l'avevano in prestito, per cui devono rientrare per forza. A meno che la Juve non decida di darlo a qualche altra squadra in prestito, o di rinnovare il prestito all'Atalanta, ma non credo però. L'Atalanta sta vivendo con i giocatori della Juve, li puoi immaginare, ne ha tre, quest'anno ne ha tre, l'anno scorso ne aveva quattro mi pare, perché uno poi l'ha passato con la Juve e il l'hanno mandato, però per dire, no? E lui, cioè la Juve gli dà l'Atalanta per farle crescere, perché Gasperini in realtà come allenatore è uno bravo, è uno che li fa crescere i giocatori. Gasperini, tanto il cappello, è un bravissimo allenatore, va tenuto per quello che è, perché ha organizzato una bella squadra e c'ha giocatori bravi anche, e già i va giocatori bravi, però vabbè, è a Torino mi pare anche quella, no? Juventus Atalanta il ritorno. Sì, sì, a Torino, allora, certo, a Torino, già lo credo. Sì, sì, caspita, l'Atalanta ad esempio a Pugomet, mi pare si chiami, una cosa del genere, un ottimo giocatore, che è anche il capitano tra l'altro dell'Atalanta, è un ottimo giocatore, è un giocatore da Juve addirittura, quello per conto mio, a Pugomet è veramente un giocatore in gamba, però noi ce l'abbiamo, i centrocampisti ce ne abbiamo, per cui non lo puoi comprare, o meglio non lo puoi comprare, ma è cosa del New Buy. Ce ne abbiamo, siamo coperti, soprattutto se arriva Andre Cham, è quello, anche se ancora non ha firmato per la Juve, ma sembra che è destinato a venire alla Juve al prossimo anno. Andre Cham è un ottimo centrocampista, per cui è un giocatore da Juve in poche parole. Speriamo bene, dai. Poi per il resto sono contento che si sta mettendo bene Melatia. Quest'anno ha fatto parte da gigante, ha fatto il figlio lo stesso, è stato rispolverato dalla Juve, perché con Milan era un morto, però quello con la Juve è stato rispolverato, che si è infortunato, ma adesso già si è ripreso, speriamo bene, perché adesso ha bisogno di giocare, è chiaro, e speriamo che si riprenda la forma ottimale in brevissimo tempo. Riprendi. Sì, ma già si riprendono tutti, dai. Adesso penso che con l'Atalanta anche Higuain giochi, spero, se no c'è Mandzukic dalla scossa, però vabbè, forse cos'era, squalificato Lichtsteiner, quindi non so, però ho visto che hanno fatto una bella partita, nonostante gli infortuni, nonostante ci credono, e quindi giocano fino all'ultimo, però quella col Tottenham l'ho vista brutta, mamma mia, sul 1-0 ho detto, boh, io Fede mi rivarisci. Sì, sì, certo, sì, ha avuto poi un lampo di genio, anzi due lampe di genio, ha avuto... Fortunatamente sono riusciti a segnare sia Higuain che Dybala, ed ecco che ha portato la partita a Torino, cioè la vittoria a Torino. Beh, è andato bene, adesso vediamo un po' il sorteggio, che cosa ci capita. Speriamo che non ci capitano il Real Madrid, perché il Real Madrid si scuripura, quello, maledizione, è troppo forte. Speriamo che non ci capiti via Madrid o qua. Io sarei contento se arrivasse, perché sono io, anche il Manchester United, perché no, non ci sono problemi, quelli li possiamo affrontare. Ma via Madrid, era finì, sono troppo voci. No, guarda, io non so cosa dirti, però secondo me la Juventus e il Real Madrid non la teme. Come non teme al Barcellona, perché al Barcellona gli Avogiai ha bucato la Juventus. E l'anno scorso la finale di Champions io l'ho vista molto bella, sono andati a riposo sull'1-1, poi chiaramente è successo tutto il casino di spogliatura, la Juventus è entrata in campo, non ha più compreso nulla, in 10 minuti avrebbe dato 4 gol. Però se la Juve entra in campo solida e attenta al gioco del Real Madrid, qualsiasi squadra le tocchi, guarda, secondo me con qualsiasi squadra gioca in Champions la Juve ha un altro carattere, quindi però c'è il però, stiamo parlando del Real Madrid, stiamo parlando del Manchester. Manchester, stiamo parlando del Liverpool, stiamo parlando, cioè adesso si qualificano tutte, il Barcellona, il Bayern, adesso si qualificano tutte, quindi vediamo in quale girone ci spettano i quarti. Speriamo bene, chi lo sa, che ci dia una mano la sorte, speriamo almeno quello, che ci dia una mano la sorte, quello è importante. Sì, no, io perché sai, dico da Madrid perché già lo sai, Ronaldo è un fenomeno, c'è da fare, quello è micidiale quello, per carità. Questa cosa gli ha fatto al Paris Saint Germain. Ma è appunto sia in casa che fuori. Per cui no, è troppo forte quel giocatore, anche se ha ormai 32 anni, però è micidiale, è di una classe genuina, proprio straordinaria, troppo bravo, troppo forte. Al momento, per conto mio, al momento è anche superiore a Messi, non da oggi, ma anche dall'anno scorso, nonostante che è dietro 7 punti da Messi in classifica in Spagna, però non vuol dire niente, io sto parlando del singolo giocatore. È forte, a me mi piace moltissimo Ronaldo, è un grandissimo campione perché è imprevedibile, in qualsiasi momento lui ti risolve la partita, è capace, è in grado di risolvere la partita. Ma Giulio, considera che al PSG mancava Neymar, tu sai benissimo che Cavani senza Neymar non fa nulla, sì c'è Di Maria, c'è Cavezzi, c'è la squadra, c'è, però il number one di quella squadra del Paris Saint Germain non venuto da là, e Neymar è stato preso per fare per vincere la Champions, invece è stato eliminato dal Real Madrid, sia l'andata che al ritorno, attenzione. Beh certo, ma non c'è solo Neymar, c'è Mbappé, c'è Sissoko, c'è Dani Alves, insomma c'è soltanto lui. Da una parte sono contento che ha eliminato il Paris Saint Germain, sai perché? Perché così, per quel deficiente è Dani Alves, che lui aveva detto che se ne andava perché lui doveva vincere la Champions, doveva vincere, con la Juve non l'avrebbe mai vinta. E invece la Juve l'ha dimostrato che è arrivato ai quarti, mentre lui invece non ci è arrivato. Quello sono contentissimo, vedi, un brasiliano deficiente, il Giambidone, Marco, la Gandera, che poi non ha fatto questo grande campionato con la Juve. La metà campionato l'ha fatto da schifo, poi magari nella seconda parte del campionato qualche cosa di buono già l'ha fatto, però aveva gli uomini che aveva a fianco anche da Lazio, non era lui, ha la bocca troppo grande quello, troppo macco per conto mio. Io lo so che l'ha criticata la Juve, io lo so, però io penso sempre che basta un giocatore che risolve la partita e che la squadra senza di quello si vede la differenza. Fa la differenza, capito? Neymar è un grandissimo giocatore, me l'hanno imbagliato una vacca di Napoli, sa cosa, mamma mia. Vedere il Paris Saint Germain fuori, io pensavo che addirittura fosse la finale Real Madrid di Paris Saint Germain, capito? Stando fuori le italiane, e invece ha fatto un buco in leva. Io Baredo è andato al PSG perché ha detto che doveva vincere tutto, e invece la Juve è quarta in finale, e di soffura, quindi si mise la mania delle dita sicuramente. Probabilmente sì, sei una persona intelligente, magari starà prendendo forse di più di stipendio, sarà anche per quello. Un buco in leva, un buco in Botafogli ha fatto Paris Saint Germain, quando pensi che ha speso 400 milioni per Dani Alves, no per Dani Alves, Mbappé e coso, e Neymar 400 milioni, 222 per Neymar e 180 per Mbappé, sono 400 milioni, 402 milioni che sono fuori dalla Cipio, oltre al fatto che prendono un sacco di soldi di stipendio, non vogliono, quindi Mbappé li paga 30 milioni l'anno, quel Neymar al Paris Saint Germain di stipendio, si può immaginare Ma gliele fate bene anche su, anche sarabo. Così almeno impara a spendere tutti quei soldi o per i giocatori o qua. Come aveva detto per la Juventus, che avevano preso a Higuaín per vincere la Cepio. Noi abbiamo fatto la finale con Higuaín, però è andata male. Non si è andato fatto sempre che ha incontrato la squadra più forte al mondo, perché Real Madrid non ce n'è per nessuno. A tutt'oggi per me rimane sempre la numero uno, è la squadra più forte del mondo. Non c'è Barcellona che tenga e altre squadre che tenga. Il Real Madrid lo guarda. E poi con un allenatore, io non ci credevo, non ci avrei mai creduto che un allenatore del genere, un ex giocatore a Juventus, un giocatore che la maggior parte l'ha giocata tutta in Italia, la carriera, riuscisse a portare un Real Madrid a quei livelli, veramente molto molto bravo. Sì, sì, sì, è un grandissimo allenatore, perché quando un allenatore riesce a tenere lo spogliatoio tranquillo, perché bravi sono tutti bravi gli allenatori, perché tecnicamente sostengono un esame e di calcio ne sanno, perché se no, no a commerciare non passerebbero, se non fossero veramente in gamba e competenti. Però subentra anche il discorso dell'uomo, è un po' come Allegri riesce lo stesso a mantenere lo spogliatoio, anche se c'è stato qualche disguido l'anno scorso, però ha comandato due e ha fatto bene ad essere di polso, se no come allenatore non è un fuoriclasse, è diciamo che è un campione ma non un fuoriclasse, questo ne sono più che convinto. I veri fuoriclasse come allenatori sono altri, tipo che so io, Capello, tanto per fare un nome così a caso, lo stesso Mourinho, quelli sono i veri fuoriclasse di allenatori. Però Allegri è uno che è educato, un signorone, questo senza dubbio lui si prende le sue colpe quando è necessario, però allo stesso tempo riesce a mantenere il gruppo bene unito e dice no, abita in un momento, solo che la Juventus, tu devi fare così, perché se no qua già lo sai che ti posso imbattire, e poi hai visto che non ci pensa due volte a togliere i giocatori che costano 90 milioni a farli sedere in panchina, non ci pensa due volte, e va bene, deve essere così l'allenatore, autoritario. Beh, giusto che sia così, sì, cosa devi va, è giusto che sia così, ma infatti io ti ripeto, Allegri oramai sicuramente avrà carta bianca anche per quanto riguarda la posizione che ha, però altri giocatori, cioè no, io sull'allenatore, non mi ricordo ma col nome, figurati, sull'allenatore del Madrid non ci avrei speso una cicca, perché Real Madrid ha bisogno di allenatori di vecchio stampo che sanno veramente quello che fanno. Invece lui, caspita, c'è uno squadrone, perché c'è uno squadrone, però deve avere anche polso per mantenere quello squadrone. Beh certo, io lo credo. Zidane si chiama l'allenatore, grandissimo campione, è stato del calcio e sta dimostrando che anche qui da allenatore si sta dimostrando un ottimo allenatore, veramente buono. Vabbè, per farsi la fama di grandissimo allenatore devono passare degli anni, lui cosa c'è 2 anni appena con Real Madrid, poi prima era un secondo in pratica, era adesso vabbè, già 2 anni che sta allenando lui direttamente da Real Madrid, ma sta facendo bene, intanto ha vinto la Coppa dei Campioni l'anno scorso, tanto va come sta, no? E non è poco, tu mi dirai ma agli uomini che ha, certo che agli uomini che ha, è vero, l'allenatore senza gli uomini come sarebbe non può vincere assolutamente, perché non c'è nessuno che fa miracoli, per cui no, che sappia tenere unito il gruppo, a livello altissimo, non ci sono dubbi, è bravo e basta, ce la fa e va bene così. Poi i giornali parlano, addirittura l'hanno associato alla Juve, preso un po', ma non credo che Zidane possa lasciare il Real Madrid, a meno che non lo mandano via, ma non credo assolutamente, perché a lui gli conviene rimanere lì. Allora devi reggersi, adesso Conte deve picchiare forte il Barcellona, perché se non vince con Barcellona secondo me lo mandano via. Sì, anche Conte, anche lui non ha carta facile, guarda, perché sì, vabbè, dicono che è richiesto addirittura anche da Paris Saint Germain, ma tutte voci che si sono sentite sui giornali, poi bisogna vedere la realtà se effettivamente è così. Lo stesso Allegri l'hanno associato, o dice che ha parlato con l'Arsenal, chissà se è vero, tutte notizie di giornalisti che poi magari la maggior parte delle volte tolgono queste notizie intanto per scrivere e per vendere i giornali, per cui non credo che abbia parlato con l'Arsenal. Sì, può essere anche che l'abbiamo contattato, ma non ne sono convinto che Allegri possa andare lì. Casomai per andare all'Arsenal, se se ne va con Conte, se ne va meglio al Chelsea. Io la penso in questo modo, cioè io essendo Allegri avrei fatto così. Se effettivamente deve andare via dalla Juve, per andare via e andare all'Arsenal, avrei preferito andare al Chelsea, dal momento che il Chelsea intanto o lo manda via a Conte o perlomeno è lui che se ne va, perché il Paris Saint Germain magari gli offre uno stipendio da nababbo a Conte e magari è capace che lui si licenzia. Bisogna vedere com'è la situazione, non è facile, no? Facile. Vabbè. Io adesso aspettiamo mercoledì che c'è questo recupero con l'Atalanta, dopodiché penso che con 4 punti di sacco dal Napoli la Juve pensi anche un po' mentalmente sia alla Champions che alla finale di Coppa Italia. Finale di Coppa Italia in campo neutro, vabbè, è Roma mi pare, però c'è sempre una grande squadra che si chiama Milan, perché il Milan sta dimostrando veramente di avere carattere e forza di risalire, ha già preso un sacco di punti, Ringhio, Gattuso ha messo a posto veramente le cose, non lo so, vediamo. Naturalmente siamo in corsa per il campionato, per la Champions e per la Coppa Italia, quindi se dovesse andare bene tutto, penso che quest'anno la Juve abbia le carte in regola per poter vincere qualcosa in più rispetto all'anno scorso. Speriamo bene, e chi lo sa, io sto aspettando con ansia che riesca a vincere questa Champions, ma comunque non è che ho molta fiducia, sinceramente parlando, non ho molta fiducia, sì, ci penso e ci spero con tutto il cuore, però non ho questa grande fiducia, sì, magari che vada avanti, che riesca ad andare anche alla semifinale, potrei anche pensare che ci può arrivare benissimo, ma una volta che si arriva alla finale, spero bene, guarda, ci vuole una buona dose di fortuna, e quella è fondamentale, a volte sai, non ci vuole niente, vuole essere anche con vantaggio di qualche rigore, eccetera, non si sa mai, una buona dose di fortuna, interessante che vince, almeno per far zittire un pochino certi tifosi che sono sempre contrastanti contro la Juve, solo per quello, almeno per chiudere la bocca a tanta gente, perché anche per incoraggiarla di più, perché se dovesse riuscire a vincere al prossimo campionato sarà ancora meglio, perché si esaltano sempre di più e poi avrà più possibilità di comprare qualche altro giocatore ancora più forte. perché si sa, quando vinci in caso si con la banca di milioni, allora i soldi li puoi spendere a comprare un policlasse, non un campiolo, un policlasse. Ma i soldi ti arriveranno solo se vince la Champions o anche se per dire va in finale e perde? Ah no, man mano che vai avanti con le partite prendi soldi sempre, soldi e quando arrivi alla finale è il botto proprio, mi sembra che sono 150 milioni, una cosa del genere, però se arrivi alla semifinale, quando arrivare lì ti ha fatto già 70-80 milioni e l'anno scorso non se ne ha presi, a voi di essere se ne ha presi, caspita, perché riesce ad avere un fatturato così alto da 500 milioni, compreso quello naturalmente, no? E auguria, è così, man mano che vai avanti, anche incominciando anche dai sedicesimi di finale, dagli ottavi di finale, sempre, man mano che vai avanti sono sempre soldi, man mano che vai avanti aumentano sempre di più, la parcella è sempre più alta. E quando c'è una squadra italiana, tipo ad esempio il Napoli che è uscito, no? Quei soldi che erano destinati a Napoli anche, lì si sommano alla squadra che rimane, cioè alla Juve in questo momento, capito qua, come che funziona? Non mi aiuto di Napoli, non sapevo, pensavo che venisse pagata la squadra vincente e basta, poi se ci fosse questo giro di denaro non lo sapevo. Vabbè, va bene che va bene. Bene, ma sto giù, mi preparo a portare il cane, dai. Tanto mi sono lotto maculese, mi sa che siamo arrivati. Siamo arrivati, la sera è finita, tra un po' si cena e ciccia. KK, tanto, ahi sono entrato nessuno, c'è Natalino, vabbè c'è gente lì, purtroppo lui non può parlare. Marco è andato a vedersi su Bellegrino, Pederastra, Fanfarrone di Bonolis. E vabbè, noi ci abbiamo fatto due chiacchiere, sono Bigliellucci. Adesso comunque già sono più a casa, perché i lavori dovevamo fare li abbiamo finiti, quindi la sera già ci sono anche io a fare due chiacchiere qua, dai. Va bene, dai, ti rilancio il cambio Giulio e vado a prepararmi, sono in pigiama, insomma il resto, e vado a portare a Filippo che ha già mangiato. Ci aggiorniamo domani se Dio vuole, ok? Ok, qua, a domani allora, dai. Grazie per la chiacchieratina, ci sentiamo, fai una buona passeggiata con Filippo, così anche lui rimane contento. Ciao qua di nuovo, alle prossime, a domani, ciao, chiudo. Ciao Giù, ma stanotte non c'è niente di partite? No, che io sappia no. Poc'anzi stavo guardando la televisione, Partizan, Sampdoria Partizan di Belgrado, ha vinto il Partizan di Belgrado 2-1, però era una squadra, adesso non so se era quelli che hanno 17 anni o se sono quelli che hanno 20 anni, perché ci sono due tipi di squadre, no? Dei giovani delle squadre di Serie A. Ma penso che era quello dei 17 anni, perché ci vedevano in faccia, erano molto giovani. E ha vinto, prima stava vincendo la Sampdoria 1-0, e poi ha rimontato e ha anche perso 2-1. Ma chi è? Va bene, ci sentiamo alle prossime. Ciao! Ciao Giù, grazie a te per le due chiacchiere, ci aggiorniamo domani, ciao a tutti.